Il diario di Q. Venezia, 28 settembre 1548. A Venezia l'eresia è dappertutto. Nel modo di vestire delle donne, coi seni fuori dagli abiti e suole alte una spanna sotto le scarpe. Nei mille vicoli stretti, dove sussurrare dottrine proibite. Nelle fondamenta impossibili che la sorreggono. A Venezia anche i tedeschi sono dappertutto. Non c'è calle, campo, canale che non conosca il suono della lingua di Lutero. Venezia, il terreno ideale per fiutare la traccia. Birreria del Fondaco. Accenni all'anabattismo buttati qua e là, sguardi stupiti, riferimenti allo sterminio di Münster, nessuna notizia utile. Tiziano, chi? Il pittore? Niente di niente. Un giro per il mercato di Rialto, ad annusare l'aria, su e giù per il ponte e quindi fino a San Marco, lungo la strada delle mercerie. Gente presa dagli affari, tedeschi venditori di pellicce, impensabili a battezzare un frate in un convento di Rovigo, tantomeno tra gli studenti di Padova. Gli studenti. Tiziano è un tipo colto, uno che può parlare la lingua delle università altrettanto bene di quella dell'oste e del falegname di Bassano. Una sensazione. L'uomo che cerco non frequenta questi luoghi. Venezia. 30 settembre 1548. Archivio dell'Inquisizione. Tre tedeschi implicati in processi di eresia. Matthias Kleber, 32 anni, bavarese, liutaio a Venezia da 12 anni. Sorpreso a rubare ostie consacrate dal tabernacolo della chiesa di San Rocco. Condannato all'espulsione e riscattatosi con il pentimento e la conversione alla fede cattolica. Ernst Roesch, 41 anni, mercante di legname, originario di Magonza, processato per le scritte inneggianti a Lutero sui muri di San Mosè e San Zaccaria, condannato a cancellarle e a versare un'offerta di 150 ducati per le due chiese. Werner Kals, 26 anni, vagabondo, proveniente dalla città di Zurigo, incriminato come stregone per le sue attività di chiromante, alchimista e astrologo, evaso dal carcere dei Piombi, ancora latitante. Un mezzo iconoclasta, un fanatico di Lutero e uno stregone. Provo a immaginarli nelle diverse situazioni che hanno visto protagonista Tiziano, ma nessuno sembra veramente adatto al ruolo del missionario anabattista. Operazione contraria. Immaginarsi Tiziano, dar vita al suo fantasma, muoverlo come un burattino per le strade e le botteghe della città. No. A Venezia Tiziano non è Tiziano. È qualcun altro. Se avesse ribattezzato anche qui, da qualche parte se ne conserverebbe memoria. Tiziano nasconde la propria identità. Alle gesta, invece, sembra voler dare la massima risonanza. Chi è? Chi è stato Tiziano a Venezia?